Reunion. Un romanzo di Dario Vergari. Capitolo 31. Sirene e misfatti. La nave era più grande di quanto avrebbe mai potuto immaginare, come se una mano gigantesca avesse preso un grande quartiere di un'immensa metropoli e lo avesse posato sul mare e fatto galleggiare. Non era una nave, era un mondo. Mirko si aggirava fra i passeggeri. Erano tutti così felici e sorridenti. Non ricordava di essersi mai sentito tanto bene in tutta la sua vita. Una sensazione di calore in tutte le sue membra lo accompagnava ogni istante. Si accorgeva di sorridere in continuazione, persino quando era solo, e ne era doppiamente felice. Drago, merito suo. In fondo, senza di lui, che cosa avremmo fatto? Davvero credevamo di diventare delle rock star? Ci sarebbe bastato? Cosa starà facendo quel bastardo? Chissà se... Trovò un angolino tranquillo e si sedette. Rovistò nello zaino e compose un numero al cellulare. «Ciao, vecchio!» Il vento forte gli sibilava nell'orecchio. Non era sicuro di aver sentito qualcosa. «Come ti butta? Hai da fare?» «Ma sei lì?» «Parla forte, che non ti sento!» Una voce distorta rispose. «Dove cazzo sei?» «Su una nave, raggiungimi, è una figata!» «Dove sbarchi?» «Torno a Mogadiscio, l'ho sognata!» Silenzio. «Sei lì?» Mirko si scostò i capelli che il vento continuava a infilargli in bocca e negli occhi. «Ci sei?» Il telefono lo guardava muto, chiamata terminata. Scrisse un sms con il nome della nave, aggiunse una faccina sorridente e tornò in fretta fra la folla festante. Erano arrivati i drink. Per fortuna aveva trovato quella nave. Sarebbe andato a Mogadiscio anche sul rimorchiatore, ma quell'atmosfera da Love Boat lo affascinava. Tante, tantissime, belle, meravigliose. Tutte spasate, come lei, anche lei. Però lei aveva quel modo di guardarmi, come se mi trapanasse la testa, con ironia, come se sapesse. Sicuramente mi sbaglio. E poi è solo una scusa. In fondo voglio solo la sensazione di parlare con un essere umano, come ai vecchi tempi. Ciao, bella bionda. Grazie, ho già il mio calice, come vedi. Ma con quel sorriso credo che due non basteranno. Ecco, vedi che ridi. Sei meravigliosa. Sì, sto andando da un'amica. Ciao. E tu? Sei giamaicana? Però hai dei capelli da sballo. Sembrano la mia faccia allo specchio la mattina. Sì, anche tu sei un bel tipo. Ma quante siete? Bella la musica. No, non la conosco. Ma mi piace, è fantastica. E anche tu. E anche tu con quei capelli rossi. Siete tutte fantastiche, come è stata una lunga strada. E ho camminato tanto, e se non fosse stato per loro mi sarei perso dietro a me stesso. Sì, anche loro, tutte fantastiche come voi. C'era quella ragazza con quelle due incredibili. Mi ha incontrato una mattina. Ero, non ridete, caduto da un albero mentre cercavo di cogliere della frutta per fare colazione. Ecco, ve l'avevo detto di non ridere. Beh, mi ha trovato e mi ha portato a mangiare a casa sua. Non voleva lasciarmi partire prima di vedere il mio viso senza la barba, ma io non... E che ridere quando mi ha cucinato gli spaghetti al limone. Nessuno dei due voleva ammettere che facevano schifo. Li mangiavamo facendo certe smorfie, sì, poi c'era quella biondina dai riccioli color oro. Era la più bella creatura che avessi mai visto. La chiamavo il mio gelato, panna e fragola. Non facevamo altro che ridere e fare l'amore. Lasciarla mi è davvero costato, ma non potevo fermarmi. Non era il momento, e ho ricominciato a camminare. Continuai a scendere verso sud, lo sapevo perché avevo il mare alla mia sinistra, e c'era, non ricordo il nome, ma l'avevo incontrata qualche giorno prima. Occhi nerissimi, era una chiacchierona, brillante conversatrice. Eravamo rimasti d'accordo che appena lasciato quella ragazza che faceva la pittrice sarei andato a trovarla, mentre di notte a letto mi parlava, io mi perdevo nel buio dei suoi occhi. Ci credereste che io li vedevo scintillare? Sì, non mi sarei più mosso di lì se non fosse stato perché il sogno mi parlava. Poi ho incontrato lei. Mi ha ospitato per alcune notti veramente magiche. Aspettavamo la luna piena e lei ballava per me vestita solo di striscioline di velluto blu. Diceva di essere una sirena che aveva deciso di venire sulla terra dopo la rivelazione. Aveva una casa sulla riva del mare. Ah, anche tu? Ah, prima vivevi in città, ma... Sì, esatto, dopo la rivelazione, come tutti, è vero. Poi io ho continuato a camminare, diciamo che ho avuto abbastanza case e non sapevo più quale scegliere. Certo, come stavo bene nella casa di quella ragazza che suonava il piano con quelle dita sottili, mi sfugge il nome, ma suonava in modo superbo, sembrava un angelo, roba da brividi. Aveva la casa piena di candele che facevano danzare le ombre su ogni cosa mentre lei suonava e io rimanevo a guardarla ed ascoltarla per ore. Spesso non ascoltavo neanche la musica che suonava, ma quella che emanava dalla sua bellezza. Non ho trovato più nessun posto che fosse così magico. Grazie, grazie, siete molto gentili. Verrei senz'altro, ma ho fatto questo strano sogno, vedete? Lo devo seguire. Poi magari ripartire, ma forse non più solo. No, bellissima, no, non mi sento solo adesso, no. Però, ecco, vedi, Lei ha ragione, i sogni vanno sempre protetti, grazie di capirmi. Me lo diceva sempre anche lei. Dormiva di giorno perché la notte la passava china sul telescopio a guardare le stelle. Io durante il giorno cercavo i fiori più belli e glieli facevo trovare sul cuscino quando si svegliava al tramonto. Siete tutte davvero così favolose che vorrei portarvi via tutte su questa nave e non fermarci mai. Magari un giorno lo faremo, o lo farete con qualcun altro, è un'idea troppo bella. Sicuramente qualcuno lo sta già facendo. Comunque, scambiamoci i numeri. Oh, guarda, sono quasi arrivato a 600. Per forza, voi di più. Sì, certo, non c'è paragone. La Renault 4 rossa arrivò in vista dei torrioni merlati, che era quasi sera. Il sole adagiato nella valle tra le colline illuminava di bagliori scarlatti un capannello di persone in mezzo alla carreggiata. La loro attenzione era rivolta a un fagotto vermiglio in mezzo alla strada. Diossido fu costretto a rallentare mentre passava accanto al gruppetto. Il suo cervello non riusciva a decodificare quello che gli trasmettevano gli occhi. Nello schermo del navigatore il suo percorso era colorato in verde. La strada che Drago aveva fatto era tracciato in rosso. Non c'era dubbio, era passato proprio di lì. E si era fermato non troppo distante dal paese. Il cerchietto rosso del cellulare del meticoloso lampeggiava immobile qualche chilometro più avanti. Se era passato di lì, allora quasi sicuramente c'era il suo zampino in quell'involto sporco che aveva richiamato tanta attenzione. Non era sicuro di dover vedere che cosa era, anzi, era sicuro di non volerlo vedere, ma si costrinse a scendere dalla macchina e avvicinarsi alla piccola folla. Il ronzio degli insetti lì era più forte. La gente mormorava frasi senza senso. «Ha fatto male ad assaggiarsi. Io avrei usato le posate». «Potremmo glassarlo con del plexiglass e lasciarlo qui per ricordo». Guarda, Carletto, a cosa porta la golosità. Ho della maionese fatta in casa, chissà se... Diossido si portò una mano alla bocca, riuscendo a fatica a ricacciare giù la marea corrosiva che lo stava perforando. Corse alla macchina e ripartì in fretta, contorcendosi sui sedili per aprire con le manovelle tutti i finestrini che poteva. La traccia lasciata dal cellulare di Drago proseguiva lungo la via principale fino a uscire dal paesino. La seguì. Discese i tornanti che gli fecero tornare la nausea. Si rifiutava di pensare ancora a quell'involto insanguinato. Doveva sapere che cosa era successo. Conosceva fin troppo bene il meticoloso e i suoi accessi d'ira. Aveva lasciato gli altri con una scusa e ora doveva andare avanti e seguire la traccia del verme rosso che aveva svoltato a sinistra. Era lì. Sembrava un enorme modellino di Ferrari semi-accartocciato attorno a un tronco di un albero, ma era un modellino in scala 1:1. Cazzo, è spacciato! No, la traccia del cellulare continua. Logico, l'erba cattiva non muore mai. Cosa gli avrà fatto quel poveraccio per ridurlo così? Cosa gli ha preso? La traccia rossa sul display lasciava la rassicurante serpentina grigia della strada e si infilava in un grande triangolo verde vuoto, solo che non era vuoto. Diossido scrutò la distesa di Gran Turco davanti a lui. Drago aveva tagliato per i campi. Filari e filari di foglie taglienti, terreno accidentato, buio. Diossido si trovava a suo agio più davanti a uno schermo che da solo, in campagna, di notte. Se prendo la macchina e proseguo, fra un paio di tornanti lo raggiungo. Aveva appena mosso il primo passo per tornare alla macchina, che dal fondo della valle, oltre i campi, balenarono due cerchi rossi e blu. Un rombo sordo risuonò, crescendo rapidamente di intensità. Un elicottero, un Chinook nero, si stava alzando. Il grande calabrone cambiava casa. Guardò il display. La striscia rossa aveva ricominciato a muoversi troppo rapidamente per essere una macchina e non c'erano strade né sentieri dove si stava dirigendo. Diossido rimase a guardare le luci dell'elicottero allontanarsi. Osservò pensoso il cellulare, poi se lo rimise in tasca. Recuperò dalla Renault 4 la torcia che secoli prima avevano usato per cercare pipistrelli e si infilò deciso nella macchia verde. L'erba cattiva, pensò. Sì, le foglie tagliavano e sì, inciampava sulle zolle, ma se illuminava il terreno con la torcia, le piante gli sferzavano il viso dall'alto. Faceva fatica a seguire la traccia sul display senza punti di riferimento. Per fortuna poteva tracciare il segnale GPS del cellulare di Drago con facilità dall'alto del ganglio elettronico che in orbita dominava le onde elettromagnetiche. Essere lo stregone informatico del Dio aveva i suoi vantaggi, vantaggi che neanche il Dio aveva. Avrebbe potuto seguire Drago in ogni momento e in ogni luogo. Ora doveva capire cosa era successo, anche se comportava una gita imprevista nella selva oscura. L'agreste, monotono panorama alterava la percezione del tempo. Non avrebbe saputo dire se stava camminando da ore o minuti. L'unica misura del tempo trascorso erano le macchie di fango sui vestiti che si era procurato scivolando sul terreno umido. Si stava avvicinando al punto da cui aveva visto decollare l'elicottero. Delle pecore belavano in lontananza. Ma le pecore cantano? Man mano che seguiva la traccia rossa il suono si faceva più chiaro. Smise di consultare il display e seguendo i belati procedette più spedito. Ora distingueva anche una voce, rinsecchita ma senza dubbio umana. Nell'aria si percepiva l'odore del carburante bruciato dall'elicottero. Era arrivato alla casa. Non c'erano luci accese, solo voci. Inciampò nel gradino del patio che correva sotto la tettoia e appoggiandosi per non cadere, spalancò la porta d'ingresso alla casa. Ora riusciva a distinguere parole nei belati. Certo, Dio era passato lì. Tastò la parete e con suo sollievo la luce rischiarò l'ambiente. Era una normale stanza con un pianoforte in un angolo, impronte di fango secco a terra. Si diresse verso la stanza da dove provenivano le voci. Accese la luce che illuminò le figure inginocchiate. Nessuno si voltò o interruppe la canzone. Diossido avanzò in mezzo al triangolo formato dai tre. Nessuno fece cenno di guardarlo. Lo sguardo rimaneva puntato a terra. La lucetta pulsante che accompagnava il ticchettio del metronomo mandava bagliori verdi riflessi sulle aste dei microfoni cadute a terra, sui bordi argentei dei tamburi. Era tutto per aria. Diossido batté le mani. «Ehi!» urlò. «Basta adesso!» Cercò di scrollarne uno per le spalle, ma erano serrate come se tutte le articolazioni gli si fossero fuse insieme. vide un filo di sangue scivolare sul mento di quello con la voce più devastata, come se qualcuno gli avesse scartavetrato le corde vocali fino a lasciarle sanguinanti. Le sue labbra si muovevano per articolare un soffio d'aria che sembrava uscire da un cadavere. «Basta, ho detto, smettetela con questa lagna, se n'è andato, potete smettere!» «Non smettono, certo. Chi sono io? Nessuno. Non sono nemmeno un arcangelo, ma scommetto che se... ecco, sì». Diossido spense il metronomo. I tre si fermarono. Sollevarono inebetiti lo sguardo su quello sconosciuto, poi, prima che Camillo avesse il tempo di parlare, si alzarono e caracollarono verso l'uscita della casa senza che lui facesse niente per fermarli.